agli affezionati di questo convegno, perché ci troviamo al quinto convegno della serie di questi incontri rosminiani, per cui i più sanno anche come è l'impostazione, il taglio, il livello dell'incontro, vero? È ormai il quinto di questi convegni a ritmo biennale che noi qui abbiamo il piacere di celebrare, vero? Anche grazie alla ospitalità splendida del comune di Rovereto. E contemporaneamente sento di dover menzionare in particolare quel gruppo di teologi che solitamente in maggio convenivano in un convegno fatto per loro da parte dell'Istituto di Scienze Religiose e che invece quest'anno è stato conglobato con questo convegno rosminiano e quindi una presenza qualificata particolare di questo convegno che per noi era fin dall'inizio il più tipico dei convegni dell'Istituto di Scienze Religiose. Mi rincresce solo che l'iniziatore di questa presenza, il presidente del Comitato Scientifico dell'Istituto di Scienze Religiose, Monsignor Luigi Sartori, questa volta per ragioni di salute purtroppo non è con noi e manda i saluti più cordiali e gli riferiremo come procedono i lavori. Ecco, ho sul tavolo le adesioni in particolare del presidente della giunta provinciale, dottor Carlo Andreotti, che telegrafa esattamente così: spiacemi non poter partecipare al convegno internazionale studi rosminiani causa concomitanti impegni istituzionali. Desidero comunque far pervenire mio sincero saluto ed apprezzamento per il lavoro svolto, unitamente all'augurio per migliore riuscita convegno. Dottor Carlo Andreotti, presidente della provincia autonoma di Trento. Credo che sarà presente, perché non vedo telegrammi, l'assessore alla cultura della provincia autonoma, in una o l'altra delle occasioni che in questi tre giorni avremo ancora di incontrarci, e quindi non mi arrogo di portare il suo saluto, che certamente verrà portato personalmente. Ecco, tra le autorità presenti, in modo particolare accanto a quelli che prenderanno la parola, sento di dover esprimere una parola di riconoscenza all'Arcivescovo di Trento, che onora questo convegno della sua presenza, e senza dubbio questa presenza ha un significato del tutto particolare. È stato giustamente lamentato una quasi freddezza per decenni da parte del mondo diocesano nostro verso la figura e il pensiero di Rosmini. Credo che la menzione che di Rosmini ha fatto il Santo Padre in questi giorni a Trento e l'atteggiamento costantemente espresso dal nostro arcivescovo, culminante nella sua presenza oggi, della quale so che lui veramente la sente molto e la ha molto a cuore, ecco, bastano da soli a mostrare una conversione radicale di questo atteggiamento, un ritorno veramente all'attenzione di Rosmini, verso Rosmini, che per noi non può essere altro che un segno di benedizione e di crescita spirituale. Ritorniamo così agli inizi, al di là di tutti gli accidenti storici, perché mi piace ricordare in questa occasione che il Vescovo di Trento, Monsignor Francesco Saverio Lushin, nella sua prima visita pastorale che mosse attraverso le valli del Trentino, partì da Trento e fece sosta in casa Rosmini a Rovereto il 3 di giugno 1825 per proseguire poi il suo viaggio pastorale per Riva, per la valle di Ledro e così via. L'inizio delle visite pastorali è segno di un clima di totale fiducia, di vicinanza spirituale fortissima che ancora nel 1825 c'era tra la diocesi e la personalità di Rosmini. Ecco, ho il compito poi di intanto dare la parola alle autorità che ci onorano con la loro presenza. Per primo pregherei il sindaco Pietro Monti di Rovereto di prendere la parola, ringraziandolo calorosamente dell'appoggio convinto e fattivo che egli in tutti questi anni ha dato a questa nostra iniziativa. Non avrebbe il carattere che ha il convegno Rosmini se veramente non si fosse instaurata una tradizione splendida da parte del comune di Rovereto in questi anni, e per parte mia non posso che augurarmi che questa linea di condotta, che questo particolare, questa predilezione verso il Rosmini e verso gli studi che lo onorano, vero, possa continuare saldamente anche negli anni a venire. La parola al sindaco. Grazie Monsignor Roger, grazie per le sue gentili parole. Indubbiamente il comune di Rovereto ha una tradizione in questo, non dipende tanto dal sindaco, perché questa iniziativa è iniziata 10 anni fa, io non ero ancora sindaco, era un altro il sindaco di Rovereto allora, ma sta a significare che la città di Rovereto guarda con estrema attenzione a questi fatti, a questi avvenimenti e contribuisce e collabora, perché si rende conto che al di là del giustamente onorare uno dei suoi figli più grandi, questo è anche un momento particolarmente importante, anche che può segnare aspetti importanti e anche per il futuro della città di Rovereto. Io saluto i graditi ospiti, i relatori, sia italiani che tedeschi. Saluto in modo particolare tutte le autorità presenti che sottolineano con la loro presenza l'importanza che ha assunto ormai questo convegno, questo appuntamento biennale. Un saluto particolare però lo voglio rivolgere a Sua Eccellenza l'Arcivescovo Giovanni Maria Sartori. Dicevo prima, rivolgendole un saluto, che è la seconda volta in 15 giorni che è a Rovereto e che ho il piacere di incontrarlo a Rovereto, e questo mi fa estremamente piacere e sta a sottolineare l'attenzione che l'Arcivescovo dedica alla nostra città, di questo lo ringrazio. Questo appuntamento, che è giunto ormai alla sua quinta edizione, quindi 10 anni sono che il Comitato Scientifico, ma anche gli enti che collaborano e che credono e hanno creduto in questa iniziativa, stanno lavorando su queste tematiche di Rosmini e sulla figura di Rosmini e sulle opere di Rosmini. In questi anni di attività è cresciuta notevolmente l'attenzione prestata a livello nazionale e a livello internazionale sulla figura e sulle opere di Rosmini. Ringrazio quindi di questo, perché indubbiamente la provincia di Trento e il comune di Rovereto hanno fatto la loro parte, ma il merito grande va al comitato scientifico, che in questi anni ha impostato in maniera estremamente seria, in maniera estremamente scientifica l'attività di questo convegno. Quindi ringrazio Monsignor Roger, che è il presidente e coordinatore del comitato scientifico, il professor Menke, il professor Beschin, padre Valle, il professor Taffieri e il professor Zucal, che in questi anni hanno sviluppato e hanno tenuto sempre estremamente alto il livello scientifico di questo convegno. Ricordava prima Monsignor Roger come questa iniziativa, partita 10 anni fa, è nata dalla collaborazione della provincia autonoma di Trento, dal comune di Rovereto e dall'Istituto Trentino di Cultura, di cui ringrazio il presidente che rappresenta oggi l'Istituto Trentino di Cultura, il professor Ardigò, per l'attenzione prestata. L'Istituto Trentino di Cultura, che ha operato in questo evento, in questo avvenimento, attraverso l'Istituto di Scienze Religiose. Ecco, questa è la dimostrazione che quando chi ha la competenza scientifica, in questo caso l'ITC, l'Istituto di Scienze Religiose, il Comitato Scientifico, si incontrano con la volontà della provincia, con la volontà del comune, possono nascere delle cose che anche senza grandissimi mezzi, perché dobbiamo dire che non sono stati impiegati mezzi particolarmente importanti, ma quando c'è la volontà convinta si riesce ad ottenere anche cose di alto pregio e di alto prestigio. Ecco, quindi se in questi 10 anni è andata continuamente crescendo l'attenzione su queste tematiche, credo che non possa essere che di buon auspicio questo per l'appuntamento del prossimo, del sesto convegno, che sarà nel 97, e noi ci stiamo così attrezzando, ci stiamo organizzando in maniera adeguata, mi auguro, anche in accordo con la provincia e con altri enti e istituti a livello nazionale e a livello internazionale, per ricordare degnamente il bicentenario della nascita di Antonio Rosmini. E quindi io credo che proprio il livello cui è giunto quest'anno questo convegno sia di buon auspicio a quello che o a quanto faremo nel 97 proprio a ricordo della figura di Antonio Rosmini. Quindi io mi auguro di poter, o che la città di Rovereto possa contare ancora sulla collaborazione di tutti voi, e con questo auguro buon lavoro a tutti e buon lavoro a questo convegno. Monsignor Roger diceva prima che non ci sono state comunicazioni da parte dell'assessorato provinciale alla cultura questa mattina. Io credo che questa mattina doveva partecipare sia l'assessor Conci che l'assessor Valduga, me l'avevano assicurato, solo che abbiamo visto dalla stampa sono impegnati con una mozione di sfiducia alla giunta, e quindi credo che, siccome sono in corso i lavori del consiglio provinciale, sarà ben difficile nella giornata odierna vederli, perché mi pare che hanno delle problematiche in questo momento particolarmente gravi, e quindi credo non possano assentarsi. Buon lavoro ancora a tutti e grazie. Adesso il piacere di dare la parola al nostro presidente dell'Istituto Trentino di Cultura, il professor Achille Ardigo, che al di là della sua posizione ufficiale ci ha dato prova di interesse e di affezione per questo nostro lavoro e per i temi in essi trattati. Io ricordo ancora l'intervento che egli ha fatto 2 anni fa, questo convegno che era tutt'altro che convenzionale. Ecco, e vorrei però con l'occasione anche ricordare, perché tutti sanno dai giornali, vero, che sta ormai lasciando questo alto compito, ecco, lasciatemi dire che l'apprezzamento per quanto egli ha fatto, assumendo per primi l'eredità e la posizione di Bruno Kester nella presidenza dell'Istituto Trentino di Cultura, e guidando un passaggio anche istituzionale, tutt'altro che semplice e facile, però nel quale i nostri istituti, penso in particolare all'Istituto di Scienze Religiose e anche un po' all'Istituto Storico Italo-Germanico, ecco, potevano anche trovarsi in posizione molto, molto difficile rispetto a quello che era ormai il modo consolidato di svolgere i propri lavori. Ecco, devo dichiarare con gratitudine in questa occasione che quanto ha fatto il professor Ardigò proprio per il nostro Istituto di Scienze Religiose, per poter anche in questa svolta salvaguardare la sua fisionomia, le sue possibilità di crescita e così via, ecco, è stata provvidenziale. Io colgo questa occasione per dirgli il ringraziamento più fervido, oltre che il ringraziamento per l'ammirazione, per la correttezza, la cordialità, la bontà, diciamo pure, con cui ha guidato questa grande svolta. E mi dicevano sempre, forse vale anche per gli ordini religiosi o per le congregazioni religiose, che la fase più difficile di queste istituzioni non è la prima del primo impianto, ma è la seconda, quella nel quale le istituzioni si consolidano e si codificano. Professor Ardigò, io le devo riconoscere fin d'oggi che questa fase così difficile lei l'ha saputa portare a termine con grande dolcezza, con grande competenza, con grande bontà. Grazie, e a lei la parola. della continuità di un impegno di questi tre anni, quindi Monsignor Roger rimarrà nel mio pensiero, nella mia esperienza di questi tre anni come un punto di grandissimo rilievo insieme con i suoi validissimi collaboratori. Devo dire che considero un privilegio enorme e anche un qualche piccolo segno e senso della mia presenza triennale che sta per concludersi, il fatto di essere qui vissuto in questi tre anni in cui si manifestava la Rosmini Renaissance. Io credo che questo sia il dato per me più importante, cioè in fondo anche un segno di quello che è stato la ragione di questa strana mia e così importante presenza in questi tre anni. Questa Rosmini Renaissance, che certamente è frutto del concorso di tanti studiosi europei, però deve la sua reale forza attraverso l'impegno che Monsignor Roger, i suoi collaboratori, il professor Nicoletti, Zuccale ed altri hanno portato. Credo che di questo tutto, diciamo così, il mondo del pensiero cattolico dovrà essere grato, perché questa Rosmini Renaissance, che ha avuto questo sigillo meraviglioso nelle parole del Pontefice l'altro giorno a Trento, costituisce una importante, a mio avviso, indicazione. Noi stiamo faticosamente cercando di uscire da molto tempo dalla dominanza del pensiero postmoderno e credo che da questo punto di vista questo anche titolo che è stato offerto a questo convegno, Credere pensando, possa essere una delle chiavi di lettura. Sono convinto che del pensiero postmoderno c'è la frammentazione, non c'è nessuna autorità, non c'è nessun principio fondante, c'è una pluralità di punti di vista che devono confluire nella formazione di una comunità di pensiero che non è mai, per così dire, gerarchica e sempre chiaramente di tipo pluralistico, quanto purtroppo non relativistico. Ora, secondo, per quello che posso capire, questa Rosmini Renaissance che nasce qui da questo lavoro di tanti, alcuni anni più recenti, è probabilmente anche in grado di poterci far uscire da questo drammatico momento della nostra concezione filosofica e culturale, perché da una parte il pensare costituisce la condizione per poter essere in qualche modo anche oltre il postmoderno, ma con una certa coscienza delle difficoltà di un pensiero che non può più essere rigidamente metafisico. E questo mi sembra importante. Dall'altro però, se noi continuiamo in questa sorta di tendenziale relativismo, che è in qualche modo un frutto inesorabile forse di questo tipo di spezzettamento pluralistico del sapere, noi rischiamo di trovarci sempre incapaci di uscire da quell'essere la concezione dell'umanità, essere pensata come debole e come razionalità limitata, mentre invece noi oggi sappiamo che dobbiamo superare questa accettazione quasi narcisistica della razionalità limitata, perché evidentemente altrimenti rischiamo di entrare in una società tecnologicamente avanzata ma barbara. Ecco perché anche per i non teologi c'è questo grosso richiamo della Rosmini Renaissance che è nata qui a Trento, a Rovereto, anche con qualche contributo, diciamo così, generale, non soltanto specifico, che appunto Monsignor Roger e i collaboratori da parte dell'Istituto Trentino di Cultura. Sono convinto quindi che avremo delle ricadute, per usare una parola che è troppo correntemente richiesta però per questo tipo di investimenti, nel campo scientifico avremo delle ricadute più forti, appunto perché è in un certo qual senso un bisogno che noi avvertiamo oggi di conciliare questo concetto dell'approccio pluralistico con la coscienza che vi sono dei punti di riferimento, e quale punto di riferimento più forte che non una teologia insieme trinitaria ed ecclesiale, che costituisce appunto il tema di questo convegno per il quale io formulo migliori auspici. Molte grazie. Devo dare ancora la parola al padre, al superiore generale della congregazione dei Rosminiani, verità, vero, della apertura del processo di beatificazione del nostro Rosmini, sospirata per tanti anni, desiderata, sollecitata e forse come in pochissimi casi anche giustamente richiesta e attesa. Ecco, tutto questo credo forma oggetto di esultanza da parte della congregazione, di impegno non indifferente per collaborare alle ricerche e alla raccolta delle testimonianze e così via. La diocesi di Trento, che non è la più direttamente ingaggiata in questa impresa, perché come loro sanno, vero, il processo di beatificazione viene ancorato alla diocesi dove il candidato alla beatificazione è morto, però la Santa Sede ha voluto esplicitamente che venisse associato con una commissione diocesana paritetica anche la diocesi di Trento, proprio per larga azione, la larga presenza anche di apostolato, oltre che di pensiero, che Rosmini ha avuto tra noi. Ecco, questo il significato particolare della presenza e dell'intervento del padre Giambattista Zantedeschi, che salutiamo tra noi presente. Saluto il nostro arcivescovo e in lui saluto tutti i partecipanti. Sono particolarmente lieto che quest'anno mi sia provvidenzialmente, avrei dovuto essere in Africa in questo momento, ma provvidenzialmente si è interrotto la coincidenza di impegni inerenti al mio compito che mi portavano all'estero proprio mentre si organizzavano gli incontri qui di questi convegni. E mi è sempre dispiaciuto di non poter partecipare, ma perché sono convegni che si svolgono e sono meravigliosi, diretti a fare conoscere e promuovere il pensiero di carattere universale dell'Aquila di Rovereto, Antonio Rosmini, è salutato domenica scorsa e anche sabato stesso, ha salutato e ammirato ed esaltato a Trento dallo stesso Santo Padre, il Papa Giovanni Paolo II, il quale recentemente, forse certamente non lo sapete voi, mentre lo ringraziavo per aver dato disposizione di aprire la causa di beatificazione di Rosmini, mi disse testualmente: oh sì, è proprio la caratteristica della pronuncia sua. Oh sì, Rosmini è un grande uomo, un grande santo, lo dice il Papa, un grande filosofo e teologo del secolo scorso. Questo. E ora io mi sento altamente onorato di porgere il saluto dei figli spirituali di Antonio Rosmini e con viva riconoscenza al dottor Pietro Monti, sindaco di Rovereto, al dottor Paolo Conci, assessore provinciale alla istruzione, formazione professionale e cultura, al professor Achille Ardigò, presidente dell'Istituto Trentino di Cultura e al professor Iginio Roger, direttore dell'Istituto di Scienze Religiose di Trento, e a tutti i partecipanti a questo quinto convegno internazionale di studi rosminiani e in particolare agli illustri relatori che ci terranno la loro, ci comunicheranno la loro sapienza e il frutto dei loro studi. E voglio rivolgere quindi un vivo ringraziamento e plauso per quanto attraverso il progetto rosminiano hanno fatto il comune di Rovereto, la provincia di Trento, autonoma, e l'Istituto di Scienze Religiose, che hanno, per quello che già hanno compiuto per la promozione del pensiero rosminiano e per quanto so che hanno in programma di compiere per il bicentenario della nascita di Rosmini. Auguro a tutti un buon lavoro, come ha fatto il nostro signor sindaco, e un ottimo successo anche di questo convegno. Grazie. Posso sottrarmi proprio al bisogno, permettete, del cuore di dire una parola in apertura di questo convegno che già si prospetta estremamente interessante e vivo. Una parola di saluto cordialissimo a tutti voi, in particolare agli oratori, e una parola di vivo apprezzamento per l'iniziativa, che ormai è la sua quinta edizione, di questo convegno di studi rosminiani. Apprezzamento per quanto ha fatto il nostro Istituto di Scienze Religiose nell'ambito dell'Istituto Trentino di Cultura, che è stato diretto per 3 anni dal professor Adigo. Mi rammarico che lasci questo incarico così prestigioso, penso che sia una perdita per la nostra diocesi, e per quanto hanno fatto il Comune e la provincia autonoma di Trento perché si potesse realizzare questa iniziativa. Io voglio dire solo una parola vivissima, ecco, di gioia e di compiacimento, perché quando sono venuto a Trento mi sono incontrato con i roveretani, mi ricordo molto bene, il 5 di agosto del 1988, nella festa tradizionale della Madonna Ausiliatrice, che ha radici secolari, e mi ricordo che in quella occasione ho espresso l'auspicio che finalmente si apra il processo di beatificazione, che la Chiesa possa riconoscere la santità di questo nostro figlio della terra trentina, che è veramente un gigante del pensiero, della santità, e in tutta la sua opera culturale di enorme rilevanza per il mondo cattolico. Dicevo questo proprio perché da quando avevo letto sulla vita e sulle opere della Rosmini mi ero profondamente convinto di aver incontrato un santo, che era giusto che la Chiesa riconoscesse la santità delle Rosmini. Ecco, questo auspicio finalmente si è avverato. Infatti quest'anno il convegno si svolge con questa nota di novità, che da qualche mese è stato aperto con nulla osta della Santa Sede il processo di canonizzazione della diocesi di Novara, e che anche a Trento è stata costituita, io ho firmato il decreto costitutivo, una commissione storica che collaborerà con la commissione storica di Novara per mettere a punto tutti i vari problemi che riguardano la vita, il comportamento e gli atteggiamenti del nostro caro Rosmini. Io ho fiducia che questo convegno, con la serietà che lo contraddistingue da sempre, porterà un contributo validissimo proprio nel settore più delicato che riguarda il processo di beatificazione, cioè il tema dell'aspetto della teologia. Noi sappiamo che sulla bontà, sulla santità personale dei Rosmini non ci sono mai stati dubbi. Invece sul pensiero sappiamo che in passato ci sono state varie riserve. È il punto più delicato e più difficile del cammino verso la gloria degli altari che ha incominciato a percorrere la causa del nostro caro Rosmini. Io ho fiducia che questo convegno, dal programma che ho letto, un convegno estremamente impegnativo e qualificato, penso che questo convegno porterà un contributo perché la causa possa andare avanti e possa concludersi in tempi brevi. Non so quando si concluderà, perché questo rimane di buon Dio, ma io penso che sia giusto il mio apprezzamento, che questo convegno porterà un contributo di grande valore al progresso della causa. E ho sentito bisogno di parlare anche perché ognuno ha una sua storia e anch'io, come fratello cristiano vostro, ho una mia storia spirituale. È uno dei libri che più mi hanno arricchito, che ho letto tante volte, che ho cercato, come ho potuto, di praticare, anche se non è facile praticare, è quel libricino Massime di vita, di perfezione cristiana del Rosmini, che è un concentrato di sapienza, di luce e di grazia. Un libro scritto tanti anni fa, mi pare nel 1830, che però ancora oggi, a distanza di tanti anni, conserva una essenzialità, una pregnanza, una forza, una carica veramente straordinaria. Per quello che io ho sempre apprezzato in Rosmini è questa sua capacità di cogliere l'essenziale, di dire le cose con una grande potenza concettuale, perché questo libricino, accanto a qualche altro che in questi anni, anch'io sono ormai verso la fase finale della vita, questi anni mi hanno confortato e arricchito, questo libricino occupa uno dei posti più importanti nella mia vita. Per questo, anche se è un po' fuori programma, sentivo il bisogno non solo di salutarvi, di esprimere l'augurio più cordiale di buon lavoro, ma di dire anche questa mia personale riconoscenza verso un maestro di vita spirituale verso il quale resterò sempre debitore per tutta la mia vita. Grazie.